c'è questo ritorno di Eco e bentornati qui sulle frequenze di Radio Wombat. E questa è Basement Records, e Basement Records ritorna finalmente dopo un periodo di pausa. E questi erano Onda Rossa Fosse con Batti il tuo tempo, la nuova sigla di Basement Records dopo un bel po' di tempo, con gli Hyper Sound di Ferranri. E Basement Records è ripartita grazie, penso ormai lo saprete se seguite la trasmissione, grazie ai vostri ritrovamenti vinilici. E siamo appunto ripartiti perché l'ospite di stasera è un vecchio amico che è ritornato qua nella regia di Wombat, dopo che avevamo già fatto insieme, se ben vi ricordate, siete vecchi ascoltatori di vecchia data di Radio Wombat, avevamo fatto insieme una puntata, una bellissima puntata su I Mano Negra, e vi invito a recuperarla se ve la siete persa. Un racconto di una giornata epica insieme ai Mano Negra, oltre a scoprire la loro discografia come sempre. Ma presentiamo qui il nostro ospite con il suo carico vinilico, e benvenuto qui a Basement Records a Carlo, che ci ha portato tutto questo questo carico di dischi. Grazie. Ciao a tutti. Sì, è una parte dei vinili ho ritrovato, e che ha la particolarità di essere transitati attraverso le radio, prima Antenna Libera Toscana, poi Radio Cirol, ma infine ora ce li possiamo ascoltare a Radio Wombat, e che quindi, essendo vinili, dischi, come si diceva all'inizio, come si diceva una volta, sì, come si diceva una volta all'inizio degli anni '80, quando appunto queste due radio trasmettevano, hanno la particolarità appunto di non essere di non avere una, come dire, un'omogeneità, ecco. Quindi svariati stili musicali, svariati anni di incisione, proprio come ci piace qua a Basement, tra l'altro era proprio in linea con il futuro. Volevo un attimino raccontare, ecco. Quindi c'è questa radio, Antenna Libera Toscana, che trasmette dall'interno del circolo Arci di Colonnata, quindi una radio legata al circuito dell'Arci. Poi la radio finisce, interrompe le proprie trasmissioni, e i vinili, i dischi, transitano a Radio Cirone, che proprio pochissimi mesi dopo che Antenna Libera Toscana cessa le trasmissioni inizia le proprie. Non sono durate tanto, circa 6-7 mesi. Appunto Radio Cirone trasmetteva da campi con un antennone di 20 metri, 25 metri, poi anche Radio Cirone cessa le proprie trasmissioni, e per recuperare un po' di soldi, o comunque per redistribuire, quello era un qualcosa che comunque se no, altrimenti sarebbe rimasto inutilizzato, ci fu una piccola asta, e ognuno di noi si prese alcuni di questi vinili. I miei hanno la particolarità appunto di non essere omogenei da un punto di vista del stile musicale, ma più che altro erano quelli che io già ne avevo tanti, magari è il secondo carico, ecco, di vinili che arriverà successivamente, diciamo erano quelli o alcuni dei generi musicali che io non possedevo, ecco, non avevo, e ora sono arrivati a Basement Record. Sono tutti 33 giri, e quindi c'è un bel po' di materiale, un bel po' di musica da ascoltarci insieme. E qua sul piatto ho già preparato il primo vinile, e in questo caso è un classicissimo del blues, un grande del blues elettrico, è John Lee Hooker con l'album Do the Boogie, e adesso ci andremo ad ascoltare la seconda traccia della prima facciata con Black Man Blues, qui a Basement Records, ovviamente su Radio Wombat. John Luker non gli piace. John John Lee Hooker non gli piace davvero, eh? Avevamo provato anche prima. Eccolo, è partito. Questo era un John Lee Hooker d'antan, ancora sente tantissimo il legame con il blues rurale prima della sua svolta elettrica. Dopo un po' di fatica ce l'ha fatta a iniziare il buon John Lee. E però dimmi un po', quali sono stati gli anni di attività di Radio Geronimo? Eh sì, più o meno... Ora non ricordo precisamente, comunque nell'82-83 ci mettiamo tantissimo a organizzare la radio, perché chiaramente nasceva dal basso e considerato anche il contesto, l'ambito in cui nasceva, cioè un ambito locale, proprio un ambito di cittadina, era anche, o almeno noi l'abbiamo concepita anche come una sorta di punto d'aggregazione, ecco, non c'era il centro sociale, non c'erano neppure luoghi di ritrovo, diciamo, assimilabili, no? Birrerie, roba di questo genere. E quindi le riunioni della radio e poi successivamente la radio anche come una sorta di momento, di punto d'aggregazione. E iniziamo bene, perché coprivamo tutte l'orario, le trasmissioni, dalle 10 la mattina fino a mezzanotte la sera. Ah, un palinsesto fitto. Sì, anche. Un palinsesto fitto in cui c'era molta, molta musica, infatti c'erano questi scaffali di ferro con i vinili tutti impilati perché pesavano, no? Ah, sì, sì. Tutti questi vinili che alternavano, ecco, ci avevamo molte notizie in diretta, no? Perché tenete presente, non c'era internet e quindi noi eravamo un po' sintonizzati, c'erano, diciamo, un po' il televideo, un po' le notizie dalla RAI. Ah, prima, le notizie di prima mano sull'ultima ora del televideo, esatto. Canale 101. Esatto. E poi appunto le notizie arrivavano direttamente lì, che riguardavano, diciamo, campi, ecco, e quindi un po' una cosa così. Poi appunto era una radio comunque all'interno dell'area di movimento, e quindi anche tutte nata dopo la liberalizzazione delle frequenze. Sì. Ora non mi ricordo, guarda, sulle delle frequenze FM. Sì. Non mi ricordo la frequenza. Però mi sembra era verso i 105, insomma, eravamo in fondo alla scala. In fondo, ecco, sì, perché appunto le frequenze mi sembra partivano da 89 e finivano a 106, roba del genere. Sì. E quindi appunto vi ispiravate per caso, visto l'ambito, visto gli anni, magari, penso, mi viene in mente subito Radio Alice di Bologna. Sì, diciamo che questo era un obiettivo. Sì, no, cioè era l'esempio, diciamo, però, la linea da seguire. Esatto, però il nome, appunto, Radio Geronimo, alludeva appunto agli indiani metropolitani, insomma, no? E comunque un simbolo di un anti-imperialismo, diciamo così, insomma, no? Devono andare contro quelli che sono i potenti, i poteri forti, ecco. E quindi questa radio durò 6-7 mesi, poi si esaurì, ecco, anche se poi dopo solo 6-7 mesi? Sì, solo 6-7 mesi, per problemi anche di non solo problemi, anzi problemi, diciamo, sociali o così, poca roba, ecco. Noi, insomma, quando chiuse eravamo ancora tutti lì, anzi addirittura la radio si era ingrandita da un punto di vista di quelli appunto facevano la radio, ecco. E ci sono stati grossi problemi da un punto di vista legale, diciamo così, tra virgolette, perché comunque occorreva la firma, diciamo così, da un punto di vista formale, di un giornalista o comunque di un pubblicista, e questo fu il primo dei problemi grossi. Non ci riusciva a trovarlo, perché non era una cosa molto, molto semplice. Mi immagino qualcuno che si prendesse l'onere di metterci il nome. E poi anche da un punto di vista tecnico, l'antenna, con un punto di vista burocratico, non solo quello del giornalista, ma dover tenere insomma dei libri contabili o comunque, insomma, tutte le registrazioni alle scoposte, e poi infine anche una conflittualità con chi ci ospitava, perché pur essendo d'accordo su alcune cose, su altre diciamo era un po' titubante, eccolo. L'Arci voleva una gestione più come dire, meno militante e più arci. Sì, meno militante e più arci, ma anche meno come dire, meno dadaista, ecco, diciamo così, insomma, no? Noi lì insomma si buttava notizie, musica e così via. Loro, per esercitare, diciamo così, un certo controllo, volevano che ci fosse un palinsesto ben preciso, insomma, che c'era un palinsesto, però, diciamo, molto spesso il palinsesto non veniva osservato, ecco. E quindi, però, ecco, funzionò per quei mesi, e poi funzionò perché poi il nucleo, diciamo, della radio continuò su altri progetti, fino ad arrivare anche a un'occupazione a Campi per un centro sociale circa un annetto dopo, che anche quella durò pochissimo, addirittura ella si parla di giorni, neppure di settimane. È un ambito troppo provinciale, diciamo. E poi comunque non anticiparci tutto adesso, aspetta, facciamo partire un altro di tutti questi vinili che ci hai portato, e qui eri incuriosito, appunto, questi sono i Tritons, e in questo caso, in questo lato, sono tutte quasi tutte cover dei Beatles, e in questo caso ho scelto Get Back dei Tritons, qui a Basement Records, Radio Wombat. E questi erano i Tritons con la cover dei Beatles di Get Back, vinile registrato veramente bassissimo, ho dovuto alzare tutto qua perché se no non si sentiva niente. E visto che ancora non le abbiamo date, ricordiamo i nostri canali qua per mettersi in contatto con noi qui di Radio Wombat. E sono sempre il sito, che è wombat.noblogs.org. Vi ricordiamo anche, ovviamente, per chi sta qui nei dintorni dell'area fiorentina, anche la frequenza sulla vostra autoradio in onde medie 1359 1359, in onde medie, mi raccomando, se state qui nei dintorni dell'area di Firenze, almeno potete sentire anche Wombat dalla macchina mentre vi tentate di spostarvi nel traffico cittadino. E poi la nostra mail per indicazioni, suggerimenti, infamate, e chi più ne ha più ne metta, è sempre postawombat@insiberia.net. e i nostri canali social abbastanza costantemente aggiornati, e sono sempre Twitter con twitter.com/radiowombatfi e facebook.com/radiowombatfirenze. Ma ritorniamo appunto a questa scena delle radio libere della periferia fiorentina di inizio anni 80, direi. E prima di Radio Geronimo mi stavi parlando appunto di un'altra provenienza, arrivavano da un'altra radio che io non avevo mai sentito. Dimmi qualcosa di più, se ne sai qualcosa, anche giusto per ritracciare un po' la mappa delle radio libere dopo la liberalizzazione delle frequenze radio, che è avvenuta nella fine degli anni 70, se non mi ricordo male, 76-77? Sì, più o meno, sì. Anzi, più o meno 76, se non ricordo male, 76-77, non ricordo precisamente quale dei due, ma insomma siamo lì. E appunto, parlaci dell'altra radio, di Radio Antenna Libera Toscana. Antenna Libera Toscana, sì, esatto. L'acronimo ALT è quello che veniva utilizzato, diciamo, confidenzialmente, insomma, per gli amici, per i compagni, insomma, per all'interno della cerchia degli ascoltatori. E era un po' come poi è stata Radio Geronimo, diciamo, da un punto di vista se non propriamente della composizione dei conduttori della radio, più che altro no, niente, avevo fatto vedere a Carlo l'apertura a soffietto della copertina del vinile dei Tritons, che ormai è diventata un libro. Comunque, scusami se ti ho interrotto. Sono vinili veramente originali, cioè sono stampati 50 anni fa, più o meno 40-50 anni fa, e appunto se ne risente anche da un punto di vista un po' della qualità. Ecco, dicevo di Antenna Libera Toscana, e trasmetteva da Colonnata. E c'aveva un vantaggio, diciamo, rispetto a Radio Geronimo, e Colonnata è già un pochino più alta, si arriva più lontano, quindi, invece che nella buca, esatto, con la stessa antenna, perché poi oltre ai vinili fu trasportato anche l'antenna di Antenna Libera Toscana a Campi, appunto per Radio Geronimo. Con la stessa antenna, diciamo, il raggio di copertura della radio era molto più ampio. Però, ecco, dicevo prima che al di là della composizione dei soggetti, insomma, che animavano le due radio, diciamo che l'idea era un po' più o meno la stessa, cioè fornire notizie e musica anche al di fuori, nella periferia di Firenze, in questo caso appunto della piana fiorentina, un termine che ha assunto sempre di più importanza. Quelli erano i primi tempi, ecco, i primi periodi in cui si parlava della piana come entità, insomma, a sé, come entità territoriale, città metropolitana. Esatto, con tutte le sue problematiche. E quindi, ecco, diciamo, dal punto di vista del palinsesto, comunque del tipo di notizie, di come venivano date e come venivano raccolte le notizie, più o meno diciamo che i flussi, ecco, o il modo in cui venivano acquisite erano più o meno gli stessi, ecco, non solo da un punto di vista tecnico, ma anche, diciamo, c'era l'antenna della radio e poi le antenne sul territorio, insomma, no? Per cui, che rimbalzavano il segnale. Esatto, chi trasmetteva arrivava lì in radio le notizie passate tra conoscenti o comunque che riguardavano in particolare, ecco, diciamo, il raggio di copertura della radio. E una radio è durata molto di più di Radio Geronimo, mi sembra, ecco, mi sembra che fu tirata su proprio quando ci fu questa liberalizzazione di frequenze, insomma verso la fine del 77, inizio del 78, quindi è durata circa 3 anni, con una programmazione culturale, anche la programmazione culturale era molto, molto curata, tant'è che se uno ci è andato, comunque ci andrà o comunque ci va, sa che la Casa del Popolo di Colonnata ha un proprio cinema all'interno, anche se ora con la crisi generalizzata del cinema non è utilizzato, però all'epoca era molto utilizzato, c'aveva una programmazione propria, insomma, continua, e anche uno spazio teatrale si intitolava, che si chiamava La Soffitta, e che appunto era proprio accanto alla radio, perché la radio stessa era all'ultimo piano del circolo, era nel sotto, insomma, proprio in soffitta, nel sottotetto, sì, proprio in soffitta. E diciamo, sotto certi aspetti Antenna Libera Toscana stava già per chiudere, anzi avrebbe chiuso, però ecco, sapendo che comunque ci sarebbe stato un cambio di testimone abbastanza veloce, diciamo, ci fu proprio questo passaggio con tutte le attrezzature e con tutti i vinili. È stato proprio un passaggio di testimone, come sì, una, sì, quasi una prosecuzione, sì, sotto altro nome in un'altra zona, sì. Ma anche alcuni dei redattori, anche alcuni dei componenti periodo, rimasero, non fosse altro anche per insegnarci, ecco, perché sì. chi era quelli di radio, noi di Radio Geronimo, proprio niente, insomma, dal punto di vista non solo di come condurre una trasmissione, ma anche da un punto di vista tecnico, insomma, non era così semplice, anche se qui insomma no, sempre un po' complicata Radio Wombat, però in generale non era così semplice come ora mandare il segnale, specialmente qui a basement, poi erano gli stessi problemi, insomma. Sì, sì, no, me lo posso immaginare. E allora passiamo al prossimo vinile, al prossimo 33, e anche questo è uno, non li avevo mai sentiti, Calypsos. Mi ha incuriosito il titolo di quest'album, infatti è musica popolare afro-limonense, ma di limone, perché erano immigrati africani di Limone Piemonte? No, questi sono e poi leggo tipo di musica particolare dei Caraibi. Lo so perché allora c'era una sezione che, nonostante appunto ancora non si parlasse dei world music eccetera, però prima, diciamo, di Brian Eno, insomma, prima di My Life in the Bush of Ghost, però non veniva dall'Africa, veniva da Caraibi, Caraibi. Sì. Questa è una sorta di calypso. Comunque la particolarità è che è una musica che discendeva proprio da gli schiavi. Dagli schiavi, certo, cioè proprio musica folclorica, non imposta dai bianchi, proprio una musica autoctona. Quindi andiamoci ad ascoltare questi Calypsos con Primer Ritmo de Comparsa qui a Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. E questi erano i Calypsos con proprio una danza caraibica. Anche questa inspiegabilmente si sentiva bassissimo, ho dovuto anche in questo caso alzare tutti i volumi e sentiva un ritorno incredibile, non so se sentivano solo nelle nostre cuffie oppure anche dalla diretta, ma tant'è, insomma è proprio il bello della diretta. E vorrei cogliere l'occasione, visto che mi parlavi appunto del cinema di Colonnata, che ha avuto insomma i problemi che ben conosciamo di tutti i cinema dei giorni d'oggi, dominati dal pensiero unico delle multisale, e proprio per questo motivo, visto che proprio è una cosa recentissima di queste nuove settimane, la lieta notizia è che è nato un nuovo cinema autogestito in città. È una grandissima notizia per gli appassionati di cinema e non solo, direi. Se magari ne sai qualcosa di più e magari ci fai un'introduzione, magari un breve cenno a quello che poi sarà e come è nato e il perché anche. Tanto partiamo con come è nato e il perché, poi vedremo più avanti la programmazione. A ottobre scorso c'è stato al Centro Sociale Nestemers tre giorni un festival del cinema documentario resistente, e in seguito a quello si è formato un gruppo di persone, fra cui anch'io partecipo, che ha cercato e alla fine è riuscito a fare una sala cinematografica abbastanza in linea con quelle sono le sale cinematografiche, cioè da un punto di vista della proiezione, dello schermo, insomma, non è improvvisata, ecco, tant'è che ci abbiamo messo anche un pochino, insomma, a sistemarla. E circa due settimane fa è stata inaugurata Chinotto, che è appunto il nome di questa sala di proiezione. Sala di proiezione, sì. Sala di presentazione, anche di presentazione libri, comunque qualsiasi cosa. Un nuovo luogo per, esatto, la cultura nella zona nord-ovest di Firenze. Sì, tant'è che appunto è al Centro Sociale Nestemerson. L'entrata non è dall'entrata principale, per chi conosce il Centro Sociale, ma il cancello successivo. Ci sono delle scalette, si entra, c'è un'entrata autonoma, diciamo, da sé, insomma, quindi la sala può essere utilizzata anche indipendentemente dal fatto che sia aperto il primo pannone del Centro Sociale. Si chiama Chinotto, che è KIN8, perché si è cercato un po' di racchiudere nel nome, insomma, quella è un po' anche l'idea che ci ha animato nel mettere su questa sala di proiezione e anche appunto di presentazione libri, insomma, anche proiezione diapositive, comunque un qualcosa che in cui c'è anche qualcosa da vedere, ecco. E Chinotto appunto prende spunto anche da Kino, che è il nome del cinema in tedesco, ma diciamo un nome molto spesso utilizzato anche per il cinema del sé, via dicendo. 8 un po' allude al Super 8, ma poi alla fine, ecco, per non prenderci, insomma, per stare a significare anche un cinema popolare, comunque la programmazione è anche da cinema popolare, Chinotto, che è appunto la bevanda, diciamo, simbolo, ecco, diciamo un po' autarchia, un po' anche in controtendenza con quelle sono le bevande più bevute, insomma, no? Ma infatti mi raccontavano alla prima di Chinotto di questa storia, di questa bevuta dei centri sociali degli anni 90. Sì, esatto. E io infatti avevo risposto di contro che io conoscevo il vodkotto, che è vodka Chinotto e un pestato di Fisherman Friends di caramella al mentolo, e invece il Berlingotto, se non mi sbaglio, si chiamava il Chinotto? il cocktail con il chinotto degli... Non lo so. Ah, non lo so. Se non mi sbaglio era il Berlingotto. So che veniva, lo so perché appunto c'ero, diciamo, e, siccome appunto in particolare certe bevande conosciutissime erano, c'era solo quella che era fatta con il chinotto e il rum, per finire la composizione, le varie come dico sempre, le varie proporzioni sceglietele voi. E, insomma, e quindi il chinotto era quella a cui sapevi che, in particolare nelle scienze sociali del sud, in cui veniva fatta anche artigianalmente, insomma c'era questa particolarità di utilizzo di questa bevanda. E appunto, poi un po' si è persa purtroppo, sì, a me, però, a me, ecco, piace all'inaugurazione è stata utilizzata chinotto, c'erano otto chinotti sul tavolo, sì, giustamente, e quindi appunto c'è questa sala cinema, ma anche proiezione, insomma diciamo una sala in cui si proietta, ma che può essere utilizzata anche per proiettare diapositive, per presentare libri, insomma, e, piccola, non è grande, però ecco, diciamo, per fare in modo che ci avesse una buona acustica, che ci avesse uno schermo che si vedeva bene, così via, è stato necessario farla abbastanza piccola, però insomma ci si entra. E è iniziato, è stata inaugurata. Insomma, c'era stato anche un grande afflusso di pubblico, sì, perché... sì, c'è stato è stata inaugurata due domeniche fa, con l'assedio di Sebastopoli. Domenica scorsa c'è stata una seconda proiezione, The Black Panther Party Vanguard of the Revolution. Domenica, domani. Cioè domani, perché probabilmente la domenica sarà il giorno preferito, diciamo, anche se non sarà il giorno fisso preferito per le proiezioni. Quindi domani alle 21:30, preceduto da una piccola apericena, ci sarà la proiezione di The Black Power Mixtape 1967-1975, che è diciamo un'estensione di quello che era il documentario di domenica scorsa, perché anche questo di domani è un documentario che ripercorre un po' la storia del movimento del Black Power negli Stati Uniti, appunto dal 1967-1975, il regista Göran Olsson, uno svedese, che era andato insieme ad altri negli Stati Uniti per fare un film sulle Pantere Nere, poi ha accumulato tantissimo materiale, non ha fatto il film sulle Black Panther, ma diciamo una parte del materiale è stata utilizzata per questo documentario, in cui appunto alterna immagini di manifestazioni, insomma tutto quello che ha caratterizzato quel periodo degli Stati Uniti da un punto di vista del movimento, a interviste, fra cui anche una bellissima Angela Davis, e questa appunto domani alle 21:30. Poi dopo ci sarà ulteriori, la programmazione chiaramente andrà avanti, e magari dalle frequenze di Radio Wombat vi diremo di volta in volta. Sicuramente sulla punta, lo troverete sul sito del palinsesto via via di Chinotto. Anzi, il sabato sera potrebbe essere anche un punto di riferimento. Perfetto, ecco, sì, pensate, annuncerei. Viste molto spesso lei. Sì, sì, sarebbe perfetto, infatti, sia Tonight Alive che oggi, stasera, Basement Records, per ricordare gli eventuali appuntamenti di Chinotto. E proseguiremo dopo questo discorso, e intanto ho messo sul piatto, sperando che parta senza tanti problemi e senza tante storie, quest'altro disco che mi ha particolarmente incuriosito, di quelli che mi hai portato. Infatti l'ho preso in mano ed è scritto tutto in greco. Sì, perché faceva parte sempre di questa rubrica, diciamo un po' world, internazionalista. Sì, sì. In greco. E in questo caso si tratta di Arleta, una tra l'altro immagino una cantante, non so di che tipo, greca, non so se folclorica o di musica più popolare, quindi coglierei l'occasione per ascoltarla e conoscerla tutti insieme. Questa è Arleta, non mi azzardo a tradurre dal greco il titolo, andate sulla Faiducia. E questa è Arleta su Basement Records, Radio Wombat. Questa era Arleta, che mi dicevi, te l'avessi chiesto, la conoscevi, anche perché appunto la Grecia di quegli anni magari era come vicinanza nella lotta per tutto quello che stava succedendo in Grecia in quegli inizi degli anni 80, il regime dei colonnelli, la dittatura e tutto quello che questo comporta, insomma. E cioè, appunto, allora di Chinotto abbiamo parlato, e per continuare la rubrica internazionalista che c'era appunto su Radio Geronimo, per continuare a farti sentire a casa, dopo che ho trovato l'Arleta scritta tutta in greco, mi è capitato per le mani questo disco scritto in cirillico stavolta, e dove un minimo me la cavo già meglio rispetto al greco, anche se non vado tanto più in là. E questa è l'Orchestra Bravo, diretta da Yevgeny Kaftan. E hai qualche notizia in più di questi di questa band russa? Praticamente Unione, diciamo, sovietica, come sovietica. Non mi meraviglia, e non dovrebbe meravigliare che fosse diciamo in dotazione una, certo, una radio dell'Arci dell'epoca, cioè, è vero, quindi certo. Arleta era folk e quindi popolare, e quindi qualsiasi cosa da quel punto di vista era vista come un'opposizione, cioè, e questi, cioè, c'era tutta una serie di dischi che erano lì probabilmente per questi scambi culturali, insomma, no? Che avvenivano all'Associazione Italia URSS e via dicendo. Eh sì, insomma. certo, attraverso l'ARCI. Che nessuno conosceva conosceva indirettamente. Erano conosciuti solo quando tu mettevi il disco sul piatto, insomma. Certo, non è che c'era YouTube, c'era Discord e tutte le cose che ci sono adesso. Un qualcosa lo conoscevi se qualcuno ti portava fisicamente il disco, se no altrimenti potevi magari andarlo ad ascoltare nei negozi, sì, che avevano l'ascolto, c'era il libero ascolto, diciamo. Con tempo Mastelloni. Esatto. Però in questo caso qui, appunto, questo disco sovietico c'è proprio. Però vedo che come anno è 1987, quindi questa dovrebbe essere un'integrazione postuma ai vinili, sì, comunque, che avevi, sì, che ereditato da Radio Geronimo. Non so sinceramente lo so solo perché l'ho letto sulla copertina, però una cosa che mi ha incuriosito di questa band sovietica è che a leggere appunto i vari titoli e i vari autori delle musiche della Brave Ensemble, vedo a metà del primo lato questo brano che in realtà è scritto da Andrei Tarkovsky. Ritornando appunto all'argomento cinema, io credo che sia proprio il cineasta, perché ha puntato Tarkovsky, credo proprio sia lui. Ora non so se magari la Brava Ensemble ha collaborato per qualche colonna musica, come si dice, dei suoi film. Controlleremo e vi faremo sapere, ma appunto andiamoci ad ascoltare questa Catalog of Stars scritta da Tarkovsky e interpretata dalla Bravo Ensemble diretta da Yevgeny Kaftan, sempre qua a Basement Records, Radio Wombat. We'll be right back. Questi erano i Bravo Ensemble. Non mi sarei mai aspettato queste sonorità, comunque. Sembra molto questa new wave elettronica. Sì, appunto, molto di fine anni 80, però ecco, non me li sarei aspettati così sul pezzo, Interessanti, molto interessanti questi Bravo Ensemble. E poi adesso, per continuare, visto che appunto poi sono saltati fuori come funghi la parte internazionalista, visto anche le precedenti puntate del nostro ospite, che sull'ambito internazionalista appunto ha speso diverse parole qua su Radio Wombat, e quelli di adesso invece sono i Boa. I Boa, mi dicevi, gruppo proveniente dalla Germania? Sì. Dovrebbe essere proveniente dalla Germania, ora non mi ricordo esattamente. Sì, a vedere dal centrino, dai nomi direi proprio di sì. Non ci sono molte altre informazioni. Sono vent'anni che non li sento. Sono ritornati fuori, resumati proprio apposta per Basement Records. Allora andiamoci ad ascoltare questo brano, che è il brano da cui prende anche il nome il vinile, che è Nomad's Land dei Boa Constrictor, non dei Boa e basta. Vedo dal centrino che il nome completo è Boa Constrictor, dalla Germania, anno 1986, e questo è un vinile e chiaramente è qui a Basement Records, Radio Wombat. Thank you. E questi erano i Boa Constrictor. Nonna, erano veramente, veramente industriali, come si diceva appunto qui in regia mentre li stavamo ascoltando, perché per me sono stati una sorpresa non conoscendoli. E erano veramente industrial, devo dire, proprio suono pieno degli anni 80 industriali nel bacino della Ruhr, proprio, Madonna. Belli però, molto belli, molto belli, molto particolari. Spero si siano sentiti decentemente, perché anche qui non riesco a capire se è un problema, l'atavico problema dei piatti di basement, oppure se era gli anni sopra i solchi del vinile. Però tant'è, insomma, comunque una bella testimonianza, direi, di quel suono dell'Europa. E appunto, essendo una collezione che svaria tantissimo tra i generi, il prossimo vinile che metterò sopra il piatto, e sperando che funzioni decentemente, è niente proprio di meno che Harry Belafonte, che appunto fuori trasmissione mi stavi dicendo, Carlo, cosa che non sapevo. Tra l'altro era anche un... Sì, questo è appunto uno dei dischi che fa parte della sezione World, diciamo, come si chiamerebbe ora e come non si sarebbe chiamato allora. Era comunque, tra l'altro, Belafonte è stato tantissimo in Italia, tra l'altro, sì. se non mi sbaglio. Sì, sì. La particolarità, magari non so fino a che punto conosciuta, è che è stato un campione, diciamo, dei diritti civili, delle lotte per i diritti civili, un precursore. Questa era appunto la cosa che ignoravo completamente di Harry Belafonte, avendolo sempre identificato come un'icona pop, perché alla fine quello era un cantante di musica leggera. Non mi sarei figurato, ecco, il suo impegno sul lato civile e sociale, ecco. E quindi lui appunto ha avuto questa carriera lunghissima. Già negli anni 50 era impegnato in quelle allora erano le battaglie per i diritti civili, e durante gli anni 60-70, quando appunto queste lotte, queste battaglie si sono ulteriormente inasprite e sono andate anche al di là, diciamo, della semplice richiesta del diritto di votare, magari, no, d'uguaglianza teorica, lui ha continuato appunto in parallelo, diciamo, non insieme, ma in parallelo al suo percorso musicale, queste sue battaglie, insomma, questa sua partecipazione alle iniziative, insomma, per l'emancipazione antirazzista, insomma, in particolare appunto la gente di colore, anche negli Stati Uniti, insomma. Ecco, era un aspetto di Harry Belafonte che non conoscevo. E da questo vinile, che fondamentalmente è una raccolta per la RCA Victor, mi ha incuriosito. Tra l'altro vedo nel retro della copertina, proprio dal lato sinistro, tutte le scritte, le note in italiano, e sul lato destro tutte in lingua originale. Era proprio divisa a metà la parte italiana e la parte in inglese. E dal secondo lato, dalla facciata B di questa Greatest Hits, se così si può dire, di Harry Belafonte, volevo ascoltarmi insieme a voi non i grandi successi delle di cover strafamose che ci sono qua dentro, ma mi incuriosiva questa Zombie Jamboree, che è la terza traccia del secondo lato di questo Greatest Hits di Harry Belafonte. E chiaramente siamo sempre qui a Basement Records. Cosa ve lo sto a dire? Su Radio Wombat. E dove se no? Bellafonte con Zombie Jamboree. E poi, tra l'altro, tra i tanti vinili che mi hai portato, il prossimo è un grande classico, è Richie Havens, tra l'altro, e mi dicevi che questo disco è un bel ricordo perché era appunto un regalo. Sì, sono alcuni dei dischi sono regali, e questo era uno di quelli. Mi sembra che sia una collaborazione insieme a Pino Daniele, se non è una collaborazione. Infatti mi ha stupito mentre leggevo le note di copertina. In questo disco, che è un album di Richie Havens del 1983, tra i collaboratori e proprio tra gli strumentisti che figurano a suonare insieme, a registrare insieme a Richie Havens, c'è anche il nostro buon Pino Daniele, che tra l'altro non solo fa da session man, perché ricordo che comunque era un grandissimo chitarrista anche a livello tecnico, era in quegli anni abbastanza ricercato in special modo in ambito italiano, ma figura anche proprio come coautore di moltissimi brani di questo album. E appunto volevo, andiamoci a sentire uno di questi brani scritti a quattro mani tra Richie Havens e Pino Daniele, e questa è l'ultima traccia del secondo lato, Things Must Change, un titolo che dice già tutto fin dal suo titolo, appunto. E ultima nota da parte mia, vedo che questo disco è edito in Italia e distribuito in Italia dalla Bagaria Records, che tra l'altro era la stessa etichetta del primo Battiato, del primo Pino Daniele, anche se distribuito da una major come la EMI. Sì, infatti, tra l'altro, proprio per sottolineare questa lavorazione, l'EP si intitola Common Ground, terreno comune, proprio appunto per sottolineare appunto questo incontro fra musicisti, insomma, che collaborano insieme per la riuscita di questo LP. E allora andiamoci ad ascoltare questa collaborazione tra Richie Havens e Pino Daniele. Questa è Things Must Change, da Common Grounds, Richie Havens, qui a Basement Records, Radio Wombat. Mama's gone, time. When everything has changed, the world knows. era funky questo Richie Havens con Pino Daniele, eh? Guarda, non me l'aspettavo, ricordandomi del Richie Havens che aveva suonato a Woodstock, del Richie Havens che poi era passato a fare disco, e questa deve essere la sua ulteriore evoluzione, e qui lo trovo decisamente funky. E insomma, Pino, addirittura c'era anche, leggo qua nelle note di copertina, altro che il solo Pino Daniele, c'era tutto il gotha della musica napoletana di quegli anni. Infatti vedo che oltre a Pino Daniele alla chitarra classica, acustica e elettrica, si annoverano anche di provenienza partenopea anche il grande Tullio De Piscopo alla batteria e Enzo Avitabile al flauto. Al flauto era Enzo Avitabile, e cioè il gotha della musica napoletana di inizio anni 80. Incredibile, anche comunque un bel pezzo, è un common ground, bello funky, tanta roba. E visto l'ora che siamo arrivati per Basement, io prima di scegliere l'ultimo vinile per stasera da questa bella collezione di cui mi hai portato intanto la prima parte, visto che è tanto tempo che se ne parlava internos anche con altri, volevo farti chiederti un paio di pareri sul nostro comune cruccio dal colore viola e visto che domani c'è un'altra partita fondamentale, la definirei assolutamente fondamentale con la Sampdoria. L'angolo sportivo su Radio Wombat da quando inizialmente non è andato più avanti 3000 siepi, nessuno ha più osato parlare di sport, anche se è l'odiatissimo calcio, però via, una volta che ci siamo ritrovati qua in trasmissione non potevo approfittarne per chiederti un parere dopo insomma quella bella batosta che abbiamo preso contro l'Atalanta al lunchtime del weekend scorso. Dimmi un po'. Ma più che l'odiatissimo calcio, l'odiatissimo sistema calcio, ecco. Sì, no, certo, cioè lo sport in sé per sé è un bellissimo sport come tutti gli sport. Per questo era una bella trasmissione, bella trasmissione 3000 siepi. E qui che dire, io per me il calcio è uno sport, ecco, leopatire. È uno sport collettivo, questo è quello che mi piace di più, e quindi che siano i pulcini o che sia la Serie A, insomma, mi piace questo aspetto qui. E da questo punto di vista non ci siamo, insomma, no? La squadra non si muove, ecco, come collettivo ci sono delle lacune, anche perché non dobbiamo scordarci che l'anno scorso ci siamo salvati in una maniera sui generis, diciamo rocambolesca, gli ultimi 10 minuti di campionato, insomma, no? E quindi è cambiata la proprietà, indipendentemente dal giudizio, diciamo, giudizio, come dire, sui soldi, insomma, tutte queste roba qui, sicuramente non c'ha pochissima esperienza, e quindi questo aspetto che si paga, è stato pagato nell'assemblaggio della squadra, insomma, e così via. C'è un grande entusiasmo comunque da parte della tifoseria. Io volevo però fare un accenno, perché altrimenti non mi riesce. Sentiti libero. sulla questione stadio, ecco. Sì, è uno dei nodi fondamentali. Il restyling dei franchi sarebbe l'unica soluzione che permetterebbe un ulteriore consumo di suolo da parte in città, ecco. Ora che venga al di là del fatto che venga fatta più questa soluzione o no, che ci sia una un veto delle belle arti su uno stadio che ha forma di D, perché la D era il duce, insomma, e in cui quei tipi di strutture sono già state, cioè, come per esempio la manifattura, edificio fascistissimo, proprio la manifattura Tabacchi, l'Artemio Franchi, la manifattura Tabacchi, è lo stesso tipo di struttura costruita nello stesso periodo, lì diciamo, la privatizzazione, e i progetti dicono, nonostante l'opposizione dei vari comitati e via dicendo, il progetto di Ione verrà completamente stravolta, diciamo, da un punto di vista architettonico e urbanistico. Quindi si capisce perché dall'altra parte. Da una parte sì, da un'altra. Poi, dall'altra nello stesso momento c'è l'opposizione di Nardella a volere lo stadio a Campi, perché chiaramente lì si andrebbe proprio a vedere quanto è incompatibile l'aeroporto con tutte le varie strutture che potrebbero sorgere nella piana o con la piana stessa, insomma, no? Quindi sotterraneo, strisciante, c'è questo interesse qui a voler costruire lo stadio nell'area Mercafield. Questo, diciamo, l'aspetto. Poi c'è l'aspetto, appunto, detto precedentemente, della squadra. Insomma, c'è da vedere questi nuovi innesti di gennaio, a parte Igor, sono già stati, visto. Sono stati due calciatori africani, Duncan e Ghana, e Kwame, che è se stesse, perché è cresciuto nella se stesse. Davvero? Kwame è cresciuto nella se stesse perché è stato adottato da una famiglia pratese, se stesse. Ah, non la sapevo. Ha vissuto questa. Fino a quando non è diventato, perché ha iniziato nelle giovanili della se stesse, poi è andato al Prato. E da lì poi ha fatto il balzo in ambito professionistico, mi sembra prima in Cittadella e poi dopo a Genoa. Però qua a me è se stesse, cioè è nato ad Abidjan, però è stato adottato da una famiglia di Sesto. E tornerebbe a casa, sì, anzi torna a casa, già comprato, si deve ristabilire da un infortunio. Qua a me è Duncan, che sono... E anche a Baratto sembra, e Igor, che comunque è brasiliano, quindi un'iniezione di colore nella squadra viola. La squadra gigliata. La squadra viola. E quindi, insomma, boh, vediamo. Guardiamo un po' domani che ci tocca, come si dice qui a Firenze. Io mi ricordo sempre, come diceva mio nonno, che con aria affranta diceva: se hai scelto questi colori, poche soddisfazioni e tante bestemmie ti aspettano. Quello sicuramente in direzione ostinata e contraria, anche se magari il paragone è un po' blasfemo, diciamo, però e che mio nonno aveva visto anche tutti e due gli scudetti allo stadio, quindi insomma aveva anche visto gli anni d'oro della nostra squadra. Va bene, dai, a parte questo, finalmente ce l'ho fatta a fare una parentesi sportiva con qualcuno, un po' di soddisfazione. E il brano di chiusura, l'ultimo brano dai vinili di stasera, un altro grandissimo maestro come Ray Charles, questa è una... anche questa è una compilation di suoi successi, credo, Rocking with Ray, A Statement of Purpose. E volevo quasi farvi sentire la straclassicissima I'm Sitting on Top of the World, standard blues, interpretato da mille persone, però ho visto il titolo del brano precedente, che anche questo, il titolo è tutto un programma. E allora non posso far altro che farvi ascoltare del buon Ray Charles, I'll do anything but work. Faccio qualunque cosa tranne lavorare. Questo è Ray Charles qui a Basement Records, Radio Wombat. see even in the rain. Povero Ray, I'll take you still alive, love is blame. Direi che il buon Ray o c'ha bisogno di una ripulitina. Aspetta, guardiamo se funziona. Tanto riproviamo, perché volevo proprio farvi ascoltare questa, questo di brano, Eccolo, era la puntina che aveva subito un po' di danni. I'll do anything but work. Love is lame. I come to see you even in the rain. I'll do anything for you. But work. Sing your praises. Hold your hand. Tell the world that I think you're grand. I'll do anything for you. But slave. I'll take you to dine and dance. Fill your ears with sweet romance. You see, baby, I know I'm handsome, but what the heck? I'm all yours if you pay the check. I'm yours to have, yours to hold. But that word work just leaves me cold. I'll do anything for you. Good looking, it's a shame. But I'm all yours if you pay the check. Yours to have, yours to hold. That word work just leaves me cold. I'll do anything for you but work. E questo finalmente, dopo che è partito, lo sapete che Basement ha sempre un po' di attesa a volte prima di sentire quello che vogliamo ascoltarci. E questo era l'ultimo vinile della puntata di stasera. Come da tradizione vi ricordo gli appuntamenti qui sulle frequenze di Radio Wombat per la giornata di domani. Le dirette proseguono con a mezzogiorno l'ormai consueto notiziario anticlericale per le notizie al riguardo. Perfetto, di domenica a pranzo il notiziario anticlericale, momento migliore non ci poteva essere. E poi, come dall'inizio della radio e da come vi ricordo sempre, visto che sono storicamente le mie vicine di casella nella programmazione, nel palinsesto di Radio Wombat, vi ricordo il pomeriggio con la musica classica della Fuga del Gatto, condotto da Bloody Mary e dalla Virgi, che come dico sempre allieteranno la nostra domenica pomeriggio di ripresa dalle fatiche del fine settimana. E da adesso, a quanto pare, ho anche un nuovo appuntamento da ricordarvi con le proiezioni di Chinotto. E domani alle ore 21:30. 21:30 ci sarà la proiezione di Black Power Mixtape. Non ve lo perdete, in quel di Castello, in via di Bellagio, il nuovo cinema per la zona nord-ovest di Firenze. E allora non mi resta altro che salutarvi e darvi appuntamento sempre qui sulle frequenze di Radio Wombat la prossima settimana con o una nuova puntata di Basement o una nuova puntata di Tonight Alive, chi lo sa. Comunque rimanete sempre agganciati alla radio del Wombat. Un caloroso ringraziamento a Carlo per tutto quello che ha portato stasera, tutti i vinili che ancora ci dovremo ascoltare e per tutto quello, tutte le belle storie che ci ha raccontato stasera. E spero di riaverti presto qua sulle frequenze di Radio Wombat a Basement Records. Ciao ciao. Un saluto a tutti gli ascoltatori, ascoltatrici e ascoltatori. E buon fine settimana e rimanete sempre agganciati qua sulle frequenze di Radio Wombat.